Sisterhood is Blooming, puntata numero 3, qui in studio con voi da Radio Onda Rossa, Donna Salica e la music. E allora, questa sera abbiamo un sacco di cose da farvi ascoltare, un po' di notizie su concerti, diciamo a breve scadenza e anche un po' più spostati in là con il tempo. Intanto vi ricordiamo i nostri contatti: 0649 1750 è il numero della radio se volete squillarci, il nostro nome su Twitter se volete chattare con noi mentre siamo qui in studio e vi facciamo ascoltare la musica, è Sisters on Air, scritto AIR, quindi insomma potete cercarci e parlare con noi. E volendo c'è appunto il gruppo su Facebook dell'MFLA e lì potete lasciare anche le vostre impressioni e i vostri messaggi sulla nostra e sul martedì, sulla nostra trasmissione, sul martedì femminista e lesbico autogestito. La music, allora com'è andata la settimana? Molto bene, stancante ma bene devo dire. Allora io comincerei subito, via con la musica, subito. Poche parole stasera e partiamo subito con un mitico duo trip hop di Bristol. Loro sono i Lamb e i Lamb sono composti, chi non lo sa, dalla meravigliosa Lou Rhodes, che ha fatto anche molte cose negli ultimi 5 anni da solista, un bellissimo album tra l'altro, quindi se non ce l'avete cercatelo, ed Andy Barlow che è l'altro pezzo del duo. Dopo 5 anni di pausa hanno deciso di rimettersi insieme dopo una riunione nel 2009 e hanno deciso di fare il quinto album, che si intitola appunto semplicemente Five, ed è cominciato da qualche giorno un tour mondiale che parte dall'Australia e si chiama il Five World Tour e li porterà in Italia a luglio. Il disco uscirà il 5/5/11, quindi il 5 maggio, fra un paio di giorni. Noi facciamo sentire in anteprima quello che sarà il singolo dell'album, che si chiama, come ho detto, Five. Il pezzo che vi facciamo ascoltare è Strong the Root. Loro sono i fantastici Lamb. Comes a time when all is lost, and you'd give it all at any cost. All is dark and there's no light, but your bubble lose the fight. Well, we're the sweet, sweet spark. Every foot has left the Questo era Lou Rhodes, il Lamb. Io vi volevo ricordare il nostro blog, dove potete ascoltare il podcast e la puntata, e potete spulciare anche le nostre playlist. E quando è possibile, noi vi mettiamo anche i download dei pezzi che mettiamo in radio. E il nostro indirizzo è www.twowomenshow.wordpress.com, 2 scritto in numero. E vi volevo parlare invece adesso di un'artista francese che canta in inglese, una ragazza giovane. Lei si chiama Myra Lee, prende il suo nome d'arte, come tanti di voi sapranno, dal secondo album di Cat Power. Logicamente adora PJ Harvey. Myra ha suonato in svariate formazioni rock e ora il suo primo LP solista. E si chiama The Flame in the Eye, masterizzato a New York, ed è uscito circa 2-3 settimane fa. Il nome vero di Myra Lee è Maud Nadal, e incide per la Alice Music, che è un'etichetta di Parigi. E la nuova uscita di questo sound francese, però è molto newyorkese. Volevo farvi ascoltare appunto Myra Lee con The Flame in the Eye, e sentirete quanto è nipotina di PJ Harvey. Lei è Myra Lee. Myra Lee or PJ Harvey? I can't tell. Non lo posso dire, sinceramente non lo so, però veramente insomma ispiratissima, ecco, come si posso dire, molto influenzata come, eh sì, come me. Intanto ci fa piacere sempre ricordare che la nostra puntata chiude il martedì, gestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo l'indirizzo del blog dell'MFLA, che è mfla.noblogs.org, e vi ricordiamo anche, l'avete sentito negli spottini, ma vi facciamo il buco in testa perché è meglio, venerdì 13 maggio MFLA più Rewild presentano una serata che si intitola La resistenza quotidiana delle donne. C'è una cena vegana a buffet, 10 euro come dalle 19, buffet, come dico buffet io non lo dice nessuno, e dalle 21 la violenza contro le donne raccontata dall'MFLA, il tutto condito con la sezione musicale del martedì autogestito da femministe e lesbiche, ed è una serata a sostegno di Radio Onda Rossa, quindi non potete mancare. Cercateci su Facebook, cercatelo su, appunto, sul blog, e partecipate alla serata. Detto questo, altrimenti me lo scordavo, io faccio una piccola dedica a Checco e Dave, che ci ascoltano da casa. Loro sono i Love Inks, che sono un semplice ed efficacissimo trio electro dream pop del Texas. Non so come si possa fare dream pop nel Texas, eppure loro ci riescono. In questo momento sono in tour negli States, speriamo che riescano pure a portarli in Europa. Hanno suscitato un certo interesse con il loro album di debutto, che si chiamava ESP, e la voce della cantante, che si chiama Sherry LeBlanc, è veramente molto bella, molto interessante, come vedrete, ascolterete voi stesse. L'album che hanno inciso è per la Hell Yes, che è una piccola etichetta indipendente che ha base a Berlino, e dal sito hellyes.it potete ascoltare anche altre novità interessanti, quindi vi consiglio di farvi un giro e visitare il loro sito. Vi dicevo, appunto, c'è un tour europeo, non sappiamo se arriveranno in Italia, insomma noi vi terremo aggiornate. Intanto vi faccio ascoltare il singolo dal loro album, che vi ricordo si chiama ESP, loro sono Love Inks e il pezzo si chiama Black Eye. You've got black eye on your eye. Love Inks, e dopo i Love Inks io vi voglio parlare di un duo indie pop franco-finlandese che amo tantissimo. Loro cantano in inglese, si sono conosciuti a Parigi nel 2007, sono Olivia e Dan, e il loro gruppo si chiama The Do, che prende la pronuncia appunto della nota musicale Do, no? Anche se si scrive The Do come in inglese, insomma D-O. E nel loro album troviamo degli intermezzi strumentali che io trovo molto interessanti. E loro hanno scritto anche parecchia musica per immagine, infatti questo si sente. Sono al loro secondo album, che è uscito da un mese, per l'etichetta Sunset, che è la stessa etichetta di Lilywood and the Prick che vi ho fatto ascoltare nella prima puntata. E in estate cominceranno un tour europeo, però ancora non si parla di date italiane, spero di vederli presto. E lei è anche una gran figa, si può dire. È una bella ragazza. Veramente una bella donna. Una bella, eh? Sì. Quindi The Do ci fanno sentire il loro nuovo singolo del 2011 dall'ultimo album, che si intitola Gonna Be Sick. Erano The Do, come abbiamo scoperto che Do di petto, come abbiamo scoperto recentemente, insomma, pensavamo si chiamassero The Do, invece poi abbiamo scoperto che c'era tutto questo trucco. E intanto vi ricordiamo che domani sera ci sono i Wild Birds and Peace Drums, che facevano parte della playlist della Music. Sì, fantastici, infatti io non me li voglio perdere. Speriamo che l'audio sia buono, visto che sono batteria e voce, quindi insomma ci vuole un buon fonico. Ma io spero bene, perché loro aprono la serata ai The Dodos, anche hanno insomma un set abbastanza particolare, quindi costano 12 euro, quindi insomma abbastanza abbordabili, ve le ricordiamo, e quindi andateci e noi ci andremo, insomma, quindi se volete ci trovate. Una storia che la Music saranno domani ai Wild Birds and Peace Drums. Intanto io vi voglio presentare il Let Her Dive. Leather Dive sono un gruppo, è strano questa scelta per me, italiano, perché io non ho molta dimestichezza sì, con la musica italiana, insomma non ci sono moltissimi artisti che mi piacciono, artiste che mi piacciono, e invece queste Leather Dive sono fantastici secondo me. Intanto vabbè, sono un po', è un po' un trucco, perché loro sono voce, chitarra, Francesca Bono, e basso G Mode degli Ofelia Dorme, che comunque insomma è una band rock italiana abbastanza interessante, che la Music conosce a menadito, sì. E hanno la produzione di Trifo, che è insomma un altro personaggio interessante del panorama italiano alternativo. Loro hanno inciso alla fine dell'anno scorso un album per la Discodada Venus che si chiama The Closet, e quindi insomma hanno provato questo set insomma nuovo, diverso, fanno pensare molto molto da vicino ai Portishead, e però insomma il disco funziona, è prodotto bene, è una bella anima, un bel sound, e quindi vi faccio ascoltare Leather Dive con il pezzo Overcome. Hi. Che pezzo, bellissimo, Sonica. Loro erano Letter Die. E vi ricordo che domani sera sono qui a Roma, non mi ricordo dove, quindi non ve lo posso dire, anche se insomma la nostra politica è non dirvi dove sono in concerto, perché vi dobbiamo abituare a muovere le ditine sui tastini. Però insomma sono in concerto domani a Roma. Pure loro. E come facciamo domani sera? Ci dividiamo. Tu vai a vedere quelli che volevo vedere io vado a vedere quelli che volevi vedere. Dai, è una buona idea. Allora, io ora vorrei passare invece a un artista giovane neozelandese che ora vive a San Francisco. Lei si chiama Tamarin, la sua musica è Dark Wave e lei ama molto Siouxsie, i Cocteau Twins e Kate Bush. Kate Bush. Ok, il suo primo EP è uscito nel 2009, ora sta al suo secondo lavoro, è il primo album intero, si intitola The Waves. È particolare, sentiremo melodie liquide, atmosfere fluttuanti, sospese, e l'etichetta è newyorkese, è la Mexican Summer. Ora Tamarin è in tour in America e in Canada e apre i concerti dei Ravenettes, in Italia ancora non ci sono date. E il brano che vi faccio ascoltare di Tamarin è Dawning, lei è Tamarin. E allora stasera andiamo un po' di fretta, però non perché andiamo di fretta noi, ma perché vogliamo farvi sentire un po' di più musica possibile, quindi abbiamo anche accorciato i nostri interventi. La parte elettronica per me è finita, adesso andiamo un po' sull'indie rock pop. Vi faccio ascoltare Shrag, che sono un gruppo diciamo influenzato dal post punk e sicuramente dalla musica delle Riot Girls, per quanto questa mega etichetta possa implicare. Questa band indie inglese è in giro dal 2003 con soli due album, quindi abbastanza diciamo lenti nel comporre e nell'incidere. Hanno diversi singoli usciti per l'etichetta indipendente inglese che si chiama Where It's At Is Where You Are, e con l'ultimo album appunto uscito alla fine dell'anno scorso, che si chiama Life, Death, Prices, c'è stata una bella virata verso l'indie pop, bellissime schitarrate come piacciono a me, molta influenza delle Slater Kinney, e vi faccio ascoltare dagli Shrag, il pezzo si chiama When We Go Curting. Verità che avete ballato come delle pazze con la birra in mano nella vostra stanza, eh? Sembrava quasi di sentire Carrie Brown. Esatto. E io continuo a farvi ballare però con tutt'altro genere, con Kerenan Zeidel, israeliana del 74, e suona piano, chitarra, clarinetto, canta e si occupa dell'arrangiamento dei suoi pezzi. Kerenan ha registrato 6 album, è già famosa comunque per i suoi primi lavori indie folk e soprattutto per il singolo del 2007 Lay Your Hair Down. E invece il suo ultimo album, che è uscito nel 2011 a febbraio mi sembra, si chiama 101, e qui Kerenan esplora delle atmosfere electropop e a me vocalmente convince molto di più rispetto a prima, anche se musicalmente la preferivo prima. Comunque ha fatto niente, non gliela fa a farti felice. No, è stata diventata complicata. E è in tour mondiale ancora, no, non la potremo vedere ancora in Italia, perché più che altro America, Canada, Australia, che più che altro ce la caghiamo soltanto noi, quindi, sì. Quindi però, ascoltatela, così esatto. la vedremo in Italia. Esatto. Karen Ann ha fatto un video bellissimo del brano che vi faccio sentire, che è il singolo appunto del suo ultimo album, quindi se potete andate a cercare il video perché c'è una coreografia molto carina. Il brano si intitola My Name is Trouble, lei è Karen Ann. My name is Trouble, Karen Ann. E mi sono scordata di dire una cosa, che oltre ai 6 album solisti, la signorina Karen Ann è membro dei Lady and Bird. Nel caso, diciamo, per chi li conosce, vi servisse questa notizia che è molto importante secondo noi, perché noi diamo un sacco di notizie, dovreste darci un po' di feedback. Intanto 0649 17 50, ciao Stefano che ci richiedi il numero di telefono per squillarci, spero. E poi salutiamo la regina Zabo, Catulux che è a casa che ci ascolta, Checco e Dave Love l'abbiamo già salutati, e gli amici di Radio Fragola, in particolare Sangue Cattivo che nelle ultime 2 settimane, lui è un DJ di Radio Fragola che potete sentire in streaming, ha fatto un paio di puntate sulla musica al femminile che erano fantastiche, io me le sono seguite in streaming, e il gruppo di Nema Problema, in particolare Mister, che se ci ascolta insomma un grande bacio, e insomma potete ascoltarli perché mettono della musica fantastica. Io rivado sul super rock, No Joy è la band, il 24 maggio uscirà l'album di debutto del No Joy che si intitola Ghost Blonde. La band è composta da Jasmine White Glutz, che ha chitarra e voce, da Laura Lloyd, è nata nel 2008 a distanza, che insomma è una cosa che come stiamo una relazione a distanza che come stiamo sperimentando non è del tutto diciamo rara. Una vive a Los Angeles e l'altra in Canada, poi una delle due ha deciso di spostarsi in Canada e quindi il progetto diciamo è iniziato a prendere vita, hanno cominciato a suonare live nei club inglesi, ha funzionato molto bene, hanno catturato l'attenzione di una label indipendente e quindi hanno inciso e sta per uscire Ghost Blonde. A me piacciono molto, hanno un sound molto anni 90, come piacciono le vecchiette come me, e con voci molto dietro le chitarre, quindi una robetta abbastanza pesantuccia, quindi alzate assolutamente il volume dall'album Ghost Blonde, loro sono No Joy, il pezzo che vi facciamo ascoltare è You Girls Smoke Cigarettes. Che bella cosa leggerina che ci hai fatto ascoltare, Sonica. No Joy. E io infatti continuo con queste atmosfere perché vi voglio parlare di Melissa Aftermaur, classe 1972, molti di voi la conosceranno, è una bassista e cantante canadese che ha sia il progetto solista e ha suonato come bassista negli Smashing Pumpkins e nelle Hall. E Melissa trascorre l'infanzia in Kenya con la madre, poi torna in Canada e studia fotografia, e dicono sia molto brava, tanto che le sue foto sono pubblicate tuttora su varie riviste d'arte. È il suo terzo album solista, uscito nel 2010, che si intitola Out of Our Minds. È un progetto rock che trovo che sia suonato veramente eccellentemente, anche se non è il genere che poi io preferisco, però chapeau a Melissa Uttermauer. Adesso vi farò sentire un pezzo che io amo molto di questo ultimo disco, che è un brano essenzialmente strumentale, le voci vengono fuori solo alla fine, e si intitola The Hunt, e la potremo vedere nella sua unica data italiana, vedere ed ascoltare il 17 maggio al Circo degli Artisti qui a Roma. La sua etichetta è la Roadrunner Records ed è un'etichetta di origine olandese. Io ho detto tutto. Hai detto tutto. Ho studiato la lezione e ora vi faccio sentire Melissa Uttermauer con The Hunt. Niente male, non l'avevo ancora ascoltato. Ti è piaciuto? Assolutamente sì, non l'avevo ancora ascoltato. L'album lo farò subito. Intanto, velocissime, Warpaint, vengono da Los Angeles, Emily Cocal, chitarra e voce, Teresa Weyman, chitarra e voce, Jenny Lee Lindberg, basso e voce, e Stella Mozgawa, batteria e tastiere. Ogni tanto mi piace dire il nome di chi suona, perché insomma le artiste si conoscono poco. Quindi tutte donne, un primo EP nel 2009. Alla fine del 2010 è uscito un album che si chiama The Fool, che a me piace molto. Sono in concerto in Europa, purtroppo non in Italia, ma Amsterdam, Londra, Parigi, Berlino, insomma un po' di belle grandi città. Magari se siete in giro per un weekend le potete beccare al volo. Loro sono Warpaint. Il pezzo che vi faccio ascoltare dall'album The Fool è Undertow. Over. noi come al solito siamo di fretta perché vorremmo farvi ascoltare un sacco di musica e lo spazio è troppo poco, dovremmo fare una trasmissione tipo di 3 ore. E allora io volevo parlarvi di una cantante italiana, una rocker, che è il 7 maggio all'Auditorium al Parco della Musica qua a Roma ed è in tournée in tutta Italia, quindi se andate sul suo sito, ovviamente sto parlando di Cristina Donà, trovate tutte le indicazioni di questo tour teatrale che sta portando in giro da un mese circa. E Cristina Donà, chi è che non la conosce? Comunque, diciamo, sono un po' di... Non è piaciuto molto il suo... No, neanche a me, lo trovo molto pop, infatti il brano che farò sentire viene dal primo album, che è quello più sperimentale, che le ha permesso di vincere il premio Tenco nel... adesso ve lo dico, non me lo sono scritto, quindi Cristina Donà, che dire, non ho niente da dire, perché è molto amata, un pubblico insomma bello, insomma grosso, sì, eterogeneo, sì, qui a Roma insomma il concerto era bello pieno e lei è una bella performer, soprattutto live, no? Sì, io l'ho potuta vedere quest'estate, anche quest'inverno, e devo dire che sul palco ci sta proprio bene, poi è una comunicativa insomma nei suoi lavori. Allora io vi faccio ascoltare di Cristina Donà Stelle Buone, che viene dal primo album che si intitolava Tregua, ecco, l'ho trovato, del 1997, e volevo dedicare questa canzone a tutte le persone che nonostante le distanze lavorano ogni giorno per costruire dei rapporti veri e sinceri. In particolare questa canzone va a un paese in provincia di Vicenza che si chiama Bassano del Grappa, e Cristina Donà ci canta Stelle Buone. Piegate E questa era la Cristina Donà, che io amo molto, con tanto di dedica. E allora io vi avrei fatto ascoltare anche Hesben the Witch, ma non c'è tempo, quindi siccome preferisco farvi ascoltare The Luyas, vi dico comunque andatevi a cercare su internet, da qualche parte, qualunque collegamento abbiate, Hesben and the Witch, che saranno in concerto giovedì 12 qui a Roma, 12 maggio, quindi insomma potete ascoltarvele da voi, oppure magari vi la suggeriamo nella nostra playlist che troverete nei prossimi giorni su www.twomenshow.wordpress.com. Io vi faccio ascoltare The Luyas, che sono una formazione indie canadese, un side project di musiciste e musicisti che suonano in altre band. Tanto per dirvene una, due componenti sono degli Arcade Fire, insomma, che sono una band insomma abbastanza conosciuta. Due album ufficiali, l'ultimo è uscito quest'anno e si chiama Too Beautiful to Work. In tour attualmente in tutta Europa, speriamo che ci scappi qualcosa pure in Italia. Per adesso nulla, vi terremo aggiornate. Loro sono The Luyas, dall'album Too Beautiful to Work. Ci ascoltiamo il singolo Too Beautiful to Work. Assistenza di Blooming, puntata numero 3, finisce qui. La novità è che il prossimo martedì, al posto di quando eravamo pelose, ovvero storie di donne senza peli sulla lingua, ci saremo noi. Quindi il 10 maggio, il prossimo martedì, intorno alle 22, ci sarà Sisterhood is Blooming, puntata numero 4. E invece il 17 maggio ritorna quando eravamo pelose, ovvero storie di donne senza peli sulla lingua, con Samantha e Federica. Samantha con l'H, mi raccomando. Samantha con l'H. E intanto noi che dire, ci ha fatto piacere ritrovarvi, vi salutiamo per il prossimo martedì. Mi raccomando, chi ci vuole vedere, Donna Sonica e la Music al concerto dei Wild Birds and Pistrums domani. Sì. E tante belle cose. Vi salutiamo con uno dei pezzi storici che ci divertiamo, insomma, a suonare ed ascoltare insieme quando ci ritroviamo fra sisters. E lei è Ursula Racker, ne ha parlato Sonica la volta scorsa, che era appena uscito l'album nuovo, con il suo pezzo, direi, storico, un pezzo che definisce proprio la sorellanza. Absolutely. E lei è Ursula Racker e questa è Super Sister. Noi ci sentiamo la prossima settimana su Radio Onda Rossa. I rose and fell as he called my name. I played his games as he came and came. Then he changed my name, called my blackness untamed. He put me in chains. Then he changed my name, then he changed my names. But now I will rewrite history. Sister, I see you off in the distance, coming at me like a twister, packing more force than a four-time heavyweight champion. Kinky coil-topped cauldron of pain, passion, and black mama strength, hell-bent on making your mark in this world. Angry ghetto grown whirler girl, swirling, twirling your way through the darkest of days and the brightest of nights, trying to fit some love in between. Super sister, super sister, sister, super sister. Super sister, super sister, I see you off in the distance, pistons ablaze as you raise your black misters to be victors, not victims of the systems and prisons aimed at stifling their visions. Your mission is clear. Fear is not even an option. With your son on that front line, there's no time. Grab your tech nine. Don't give them suckers 1 second to blink, to blink. Super sister, super sister, sister, super sister, super sister, sister. sister, I see you off in the distance, gaining momentum as you deconstruct their preconceived misconceptions. Blowing their notions right up out the ocean, pathway to your auction. Rape, hate, blame, conversion. I call on all super sisters to emerge from the muck and the mire. Set the brainwashed up masses on fire. I call on all super sisters to enlist her in-house divinity. See, we may plead, but never bargain for the lives of our daughters and sons. There really needs to be just one love. One love, one love. There really ought to be just one love. Just one love. Just one love. Just one love. Just one love.